voi considerate poesia? Cosa voi considerate poetico? Perché personalmente la ritengo una ricchezza, ok? Quindi condividete i vostri pensieri, condividete tutto con noi. Se volete anche fare un'introduzione sulla poesia, potete benissimo farlo. Cos'altro dire? Cos'altro dire? Anna, mi sto dimenticando qualcosa? No, ma non è vero, non è vero. Va bene così. Allora, alla fine, cari miei. Ah, ma dica, signor Solimano. Ma certo, stavo arrivando, giusto. Allora, ci sono dei post-it, o post-it, apriamo il dibattito, perché voi, caro pubblico, mentre ci sarà il poeta qui che si espone con le sue fragilità, la sua sensibilità, la sua profondità, non è che, sì, starete lì a masticare, ma dovete anche tendere la pinna dell'orecchio, perché a un certo punto dovrete esprimere un'opinione. Come esprimete questa opinione? Beh, ci sono diversi modi. Uno è, dato che ci rendiamo conto che la trafila di poeti sarà lunga, saremo tipo in una ventina a leggere, quindi un bel po'. Quindi magari vi colpisce particolarmente il primo poeta, cazzo, però alla fine non vi ricordate più cosa ha recitato. Quindi noi vi invitiamo a prendere una delle penne, cacciate un po' le penne che ci sono in giro lì, minatele come i diamanti nel suolo, cercate, prendetele e scrivetevi quando vi colpisce la frase di qualche poeta, ok? Magari vi segnate il nome e la frase, ok? Alla fine, magari sul retro dello stesso post-it, scrivete, quando sarà finita tutta la scena poetica. Vi daremo il segnale, vi diremo quando sarà il momento di votare un poeta che vi ha particolarmente colpito. Okay? Chi vince, cosa vince? Siamo convenzionati con La Tigre di Carta, che è una rivista sia online che fisica, letteraria, insomma, rubriche di ogni genere, tra cui anche la rubrica PEM, che è Poesie ed Euforie Metropolitane, che è anche il nome del collettivo che organizza tutte queste faccende qui. Oggi siamo Exalge, ma siamo anche in altri luoghi. Cambia sempre, quindi se vi va, seguite il profilo, ma comunque mi avete scritto attraverso quello lì, quindi ci avete scritto. Siamo un po' qui di PEM. E alla fine verrà pubblicato quello che prenderà più voti viene pubblicato sulla tigre di carta, sia nella dobbiamo ancora capire se nella dimensione online o in quella cartacea, comunque lo saprete. Quindi poi vincitore, non scappare, chiunque tu sia, perché ci devi dare i tuoi contatti, darci la poesia, così sapremo come valorizzarla. Allora, direi che è giunto il momento, una mano alzata, momento delle domande dal pubblico. Sì, giusto, ottima osservazione. Sì, per questo invitavo a dire questa è una roba che ho scritto io, questo invece è Majakowski, ok? E vi sgamiamo, se invece. Sì, vai. Certo, introduttive. Non solo, se avete un profilo, potete spammarci quanto volete. Cioè, questo è il vostro momento, in 3 minuti. Gestitevela, ok? Quindi potete promuovermi in tutti i modi. 3 minuti. 3 minuti, dai, la poesia. Poi potete fare un'introduzione. Prima potete fare un'introduzione. 5 minuti, va bene, siamo in 20, quindi. Ok. No, ma infatti, ma che cazzo dobbiamo fare? Sì, il cibo c'è, l'alcol pure, quindi. Domande. La poesia, se riesce a stare in dentro i 3 minuti, se 5 minuti va bene uguale, però tenete conto che poi ci sono anche gli altri. Perché l'energia degli ascoltatori è una cosa materiale, a un certo punto si consuma e quello dopo si ritrova con un pubblico affaticato. Ok? Vai! No, oggi non c'è la parte. Di solito, dato che ogni luogo ha le sue specificità, okay, oggi abbiamo deciso che da Exalge non c'è la parte open mic, la divisione tra le due cose. Questo vuol dire che se tu hai da cantarci una canzone, puoi farlo, ok? Cioè, qualunque cosa reputiate poetico, a patto che ci dici perché questa cosa qui è poetico. Cioè, è bello questo, riteniamo interessante questa cosa qua, va bene? Mano alla scaletta? Non lo so. Cara mia. Maledetti tabacisti. Va bene. Allora, Jade non sarà la prima. La prima è Giorgio. Giorgio, dov'è? Un applauso e incoraggiamento, Giorgio. Buona cena poetica a tutti. Facciamo solo una cosa, ciao a tutti. Il momento delle chiacchiere è sempre, nel senso che stiamo sempre condividendo, e anzi se ci proponiamo di discutere di quello che abbiamo appena sentito è molto bello. Quando qualcuno di voi ha voglia di venire a condividere, prestiamogli un po' di attenzione. Perché come diceva, mettiamo dentro un po' le nostre cose in quello che scriviamo e che vogliamo condividere. Quindi grazie e prego. Ciao a tutti, sono Giorgio. È la prima volta che leggo qualcosa. Cazzo, spero sia coerente. Speravo di non essere il primo. Bella. Normalmente scrivo poesie, ma stasera non porto una poesia. È un pensiero ricorrente che ho avuto per una fotta di tempo e mi sono un po' costretto a condividerlo stasera, così magari se ne va. Ogni tanto, quando al lavoro mi ritrovo senza clienti o colleghi con cui chiacchierare, mi capita di trovarmi improvvisamente a disagio. Come se ritrovarmi da solo, con me stesso, creasse in me uno stato di lucidità che porta sempre alla stessa sequenza di pensieri. Non credo che questa sia la vera felicità. Non sono più sicuro del perché stia inseguendo degli obiettivi che mi hanno prefissato altri. Voglio andarmene. E un giorno potrò decidere se vale la pena tornare. Così passo i seguenti minuti a immaginarmi perso in qualche sentiero di montagna, completamente da solo, ma felice, immerso in momenti veri. E senza rabbia mi ritrovo a fare sempre lo stesso discorso. Addio, Milano. Una volta eri una città dura ma onesta. Oggi di onesto non è rimasto che qualche vecchio al bar. Addio lavoro. Siamo sinceri, io per te sono solo due colonne di numeri da bilanciare e niente di più. Come tu per me sei solo un introito in banca. Addio amici, tra di voi solo pochi spero di rivedere e so che per voi è lo stesso. Addio mamma e papà, vi ringrazio e vi voglio bene, ma il mondo si è fatto troppo piccolo e mi sembra di non lasciare mai veramente il vostro nido. Addio a tutti e fanculo. Non vi biasimo per non avermi capito, poiché solo adesso io ci sono riuscito. Fine. Ciao. È tipo la prima volta che parlo anche in un microfono, quindi viva! Allora, io porto un componimento che ho scritto e mi è capitato in questi giorni di trovare la pagina su Instagram sponsorizzata. Ho detto, ma perché tenerlo per me? Proviamo a condividerlo, insomma, provarlo con la gente. Quindi reciterò un componimento che ha il titolo Dolore di bosco. In un bosco son finito, fitto mi ci son ficcato, senza filari denso muschio di tronchi scuri e lance di luce che ad intervalli come birilli cade dentro senza posto per spiglio d'altro che sia io. Avanzo dentro e non mi scosto, dente di pettine tra pelo fitto di bestia che dorme la natura, perché qua sotto rugiada nera d'uva qualche fungo e materia coperta sopra terra nuda, qualche pietra che ferma tutto come giada chiaro e scura nell'estremo gioco della cura con cui il tempo passa dentro come vento, disfa, spezza e rilascia tensioni senza star mai fermo, non so stare, e ci passo, non so dove andare, ma ripasso qui bosco che mi fa giravoltare, come labirinto mi risputa ad un'uscita per indicarmi una via nuova in salita, un sentiero parallelo alla scelta che avrei preso se questo bosco avessi passato largo largo circumnavigato. Ciao a tutti, anche per me è la prima volta che leggo una mia poesia in pubblico. Sono Chiara e questa poesia si intitola Promessa d'amore. Genitori adottivi sono gli amanti, che mai generano l'amore, ma lo accolgono, per scelta e attivamente, tirando insieme e da lati opposti una fune tesa, da forze reciproche ed equilibrio ignoto. Nel tempo in cui la nostra corda è alta e le mie mani, con le tue, se ne ripartiscono la distensione, prometto di essere custode del nostro infinito discorso. Grazie. Assunta. Buonasera. Buonasera. Mi presento a tutti, il mio nome è Gadel. È un po' particolare, cioè come Adella cantante, ma con la G davanti. È un po' particolare perché si scrive Godil, se l'ha inventato mio padre. G, Genova, Otranto, Domodossola, Y, Livorno. E ha deciso... Se l'ha inventato tuo padre. Sì, esattamente. Infatti mia madre ha detto, i prossimi li scelgo io. Infatti i miei fratelli hanno nomi normali. È sempre stato un po'... Esatto. Sempre stato un po' disagiante, ma poi quando ho iniziato a fare musica mi sono detto, vabbè dai, ho già il nome d'arte. Io in verità non faccio poesia, adesso sono super emozionato e non ho neanche iniziato, e, però beh, Robin al Batman. No, una volta sono stato a un open mic credendo che fosse di musica, invece era di poesia, e niente, mi sono ritrovato lì e mi sono piaciute tantissimo le vibes, e quindi ho detto, boh, proviamo ad andare a un evento dedicato alla poesia, quindi eccomi qua. Non scrivo poesie, ho portato il testo di una mia canzone, sono molto indeciso se enunciarlo o cantarlo a cappella, perché non sono molto forte come enunciatore. Va bene. E niente, in una mia canzone, quando hai chiesto perché per me è poesia, secondo me poesia e melodia insieme creano la musica, no? Infatti in una mia canzone io scrivo traccio melodie sopra i melodrammi, allaccio le poesie dentro ai pentagrammi. Quindi... Wow. Poi vediamo la qualità della poesia. Va bene, parto. Questo pezzo si intitola Di nuovo deserto e parla del fatto che quando inseguo i miei sogni, quando voglio fare qualcosa che sento di mio e non è dettato dalla società o dalla struttura comunque solita della vita... Mi sembra un po' di sentirmi da solo, appunto, come se fossi in mezzo al deserto. Mi tremano le gambe. Vado. Il vuoto di giorno, la quiete la notte. Pastelli di beige azzurro nel mio orizzonte. Nemmeno una duna di riferimento. Il sole mi doppia mentre io giro in tondo. Leggo le stelle perché mi son perso, cammino da anni per trovare me stesso, nella borraccia ho più dubbi che altro, ho indicato la meta, mi han detto sei pazzo, c'è un'oasi ed ho paura che sia solo un altro miraggio, l'ennesimo di sto viaggio, torno a un punto lo stesso, lo ammetto, forse ho paura che il senso che cerco sia un gioco di luci e mi lasci in ginocchio, di nuovo da solo, in mezzo al deserto, ascolto il silenzio, scirocco alle spalle, dentro e fuori tramonti e non ho con chi parlarne, nemmeno una rosa in una teca di vetro. Ho scelto l'ego agli amici e non si torna più indietro. No, dove il vento cancella impronte del mio passaggio e porta via le parole ogni volta che taccio. Per stare da soli non c'è bisogno di mura, ditemi un cuore smarrito come si cura. C'è un'oasi e son sicuro che non sia un miraggio. Sogno che non ho coraggio, ma sete di sapere che questa volta ho visto bene, non è solo un'illusione. Torna un punto, lo stesso, lo ammetto, forse ho paura che il senso che cerco sia un gioco di luci e mi lasci in ginocchio, di nuovo da solo, in mezzo al deserto. Non credo in me, a chi è che sto urlando? Bevo dagli occhi tra distese infinite, è l'acqua su mio ad avere addosso le spine. Non c'è che la luna a farmi un po' di compagnia, ora basta stare qua tra i miei sfoghi di rabbia, bei castelli di sabbia, io lo so che voglio andarmene, questo luogo è immenso, la più grande gabbia, ma... Torna un punto, lo stesso, lo ammetto, ho tanta paura che il sogno che ho dentro allontani via tutti e mi lasci in ginocchio, di nuovo da solo, di nuovo deserto, di nuovo deserto. Oh my God, grazie, grazie. Grazie mille. Complimenti. E complimenti anche a Ernesto che sale sul palco. Ok, è la prima volta che leggo a degli estranei. Ok. Oggi la penna non risponde. Ad ogni lettera sbiadisce l'inchiostro, la calligrafia s'assottiglia, perde calco sul foglio, scompare. Tu scompari, come hai imparato a fare, come ho sempre fatto. Che più che una relazione sembra un 2-3 stella, con più paura di essere trovati che voglia di battipanni, che battimi al suolo per una volta ancora. Non vuoi che la mia parola confermi che non ci cerchiamo per scoprire giochi nuovi, ma perché non siamo capaci di trovare altri giocatori. Io ho, tu hai, la paura che ritrovarsi è nostalgia, come Allegri di ritorno in panchina. Un vecchio schema per un'altra squadra, per un altro gioco, fuori tempo, fuori luogo. Fuori comincia a far caldo e da qualche anno, ogni primavera, mi ricorda quanto bene stavamo e lo sbaglio che ho fatto. Ciao, ciao, si sente? Okay. Mi chiamo Jade, quello che porto adesso è un testo che ha un'impronta, un timbro teatrale, quindi arriva dal teatro io, però anche una sorta di slam poetry, quindi in realtà gli sta. Quindi, quello che voglio puntualizzare prima di dire, cercherò di essere molto veloce nonostante i tempi di questa poesia di questo monologo tecnicamente sono un pochino più lunghi, più dilatati. Voglio puntualizzare che sembra autoreferenziale, ma in realtà vorrei che faceste questo esercizio di togliere del tutto la mia identità e inserire la vostra. Perché parla di malinconia, di tristezza, di profonda tristezza, nonostante io sia una grandissima cazzona. Quindi vorrei fare una connessione e switchare nel momento in cui enuncio, però parlo anche di qualcosa di vostro, se posso permettermi. Se no mandatemi a cagare, tiratemi qualcosa. Soffia. Sbuffa. Goffa. Furtiva scotta e bussa e rimbocca le coperte e bacia sulla fronte, sulle mani, sulla bocca. E tocca. Anche quando non voglio, tocca. Malinconia mia. La prego, mi faccia dormire. Sono cotta. Lo sa, mi scoccia lasciarla sola, fosse l'ultima volta, ma la prego, mi guardi. Sono stanca, stravolta, ribaltata, sfatta, cartocciata come le lenzuola in cui facciamo l'amore fino a notte fonda. Spero lei possa capire. È il mio volere che si confronta, che si conforta con lei che è così bella, così profonda. La prego, non si offenda. Sono io. Io che affondo. Spero soltanto che lei comprenda che la cresta non la tocco, non la sfioro se non seguo manco l'onda. Oh, malinconia mia. Malinconia mia. Con te ho navigato profondissimi mari, però come preda. E in preda alla paura non ricordo il vento, il sole, la frescura. Ricordo solo il freddo dentro le ossa che penetrava sempre più e sempre con meno premura, costruendo senza permesso alte, altissime mura contro cui le correnti orgogliose facevano a gara chi fosse più dura. Ed io, senza testa, senza cura di me stessa, mi lasciava affari spenti in quella radura e mi sono trovata legata all'albero maestro e non tenevo a bada la strada come Ulisse senza via di casa, con la vista offuscata e una pessima postura e i postumi di una serata oscura, troppo oscura, senza parole, senza fiato, senza voglia alcuna di rattoppare la cucitura che sei riuscita ad aprirmi ogni volta che mi hai posseduta. Guardami, malinconia mia, guardami, sono a pezzi, faccio pena, parto in quarta e pretendo pure di presentarmi soltanto dalla cromatura, quando forse potrei riassemblare l'armatura, no? Essere forte, sì, quella là, quell'armatura, quella che si inizia a progettare prima ancora della prima caduta, prima di tutto, prima della prima volta in cui ho dovuto chiedere scusa, prima ancora di essere pronta a questa temperatura, prima che iniziasse la pioggia, il vento, la tempesta, prima ancora che tu arrivassi nella mia vita, prima che iniziassimo teneramente a farci le fusa, malinconia mia. E io adesso, sul fiume che porta acqua a questo tuo mare, pongo una chiusa, sai? Un freno. Per essere sicura, devo andare, devo cercare il mio posto sicuro. E poi ho altro da fare, ti prego, davvero, scusa. Ora sei tu. Sei tu a guardarmi, no? Guardami, sì. E mi bussi ancora in mente, ma la porta è chiusa. Provi ancora a farmi naufragare, ma io non lo provo più il niente. Tu che sei come un incubo. Sì, se non mi facevi dormire, mi facevi svegliare male, come una madre, sai? Sì, come una madre antipatica, madre di pensieri amari, figlia di monti e mari avvelenati, ma e sangue non mente. Ora la vista è più chiara, il sonno è lieve. Ed il vento soffia soltanto dentro le mie vele. E nei sogni miei io sto al timone, senza timore, con la mia armatura luminosa in sé credente, e l'aurora con la sua collina fiera di portare imponente la corona, anche se inesperta osa, sfuma i suoi colori e si tinge coraggiosa. Non pretendo granché, malinconia mia, ma ora devo andare, ho da fare. Dopotutto sono solamente una storia che si scrive, si ama, soffia e vola. Buonasera. Allora, mi fate paurissima, nel senso che non vedo assembramenti del genere da un sacco di tempo. Allora, devo trovare il cellulare, ho troppe tasche. Okay. E, io principalmente graffio il monitor del mio computer e a volte escono diversi tipi di cose, tra cui anche delle cose che vengono definite dagli altri poesie. Però, appunto, io ripeterei le tue parole dicendo che sono un cazzone di base, cioè faccio fatica a definirmi un poeta. Però questo marasma di scritture è veramente sterminato. Io ho dovuto fare un collage di varie cose che ho scritto per tirar fuori un corpo unitario, cioè qualcosa che avesse un corpo unitario, un senso unico. Allora, arrivo. Allora, ci tengo a questa precisazione, evita che voi fraintendiate quello che scrivo. Io non sono una persona religiosa. Ho ricevuto un'educazione atea, proprio con lo stampino con grande disciplina, che non puoi parlarne neanche. Però ci sono dei riferimenti al linguaggio religioso, e non dovete con questo pensare che io sia un prete. Cioè, assolutamente. Allora, negli occhi di Dio v'è un libro non scritto, e il nostro compito è quello di trascriverlo. Così il nostro messaggio ne risuona. I moti delle passioni hanno un linguaggio segreto, ristagna come una boccia d'assenzio, e la passione vive nella perdita e della perdita. È il peso di un medioevo che viaggia attraverso le epoche, è una carrozza ardente nei tunnel temporali dell'entelechia, è un'espressione esponenziale equanime che ci lega alla latenza, ove cadendo veniamo accolti come fiamme che non bruciano ma baciano la pelle. Siamo simbiotici, simpatetici, tra i dinosauri antropomorfi dell'evoluzione terraquea e le pianure che esalano i fumi del peccato, tra le dinastie decadute e le disfunzioni erettili, siamo la dissonanza che attraversa la storia come uno stenografo zoppo che soffre di balbuzie, senza che nessuno sappia più scriverla se non nel suo compiersi attraverso di noi. Tra la virtù delle sterpaglie e i monumenti in degrado, mille anni ne danno mille, e poi altri centomila, ma ognuno di noi se ne dissocia per riconoscersi oltre al velo, mentre il sangue viene purificato, coronandosi della nostra aspirazione a dissolvere ogni male. Secondo tempo. Quando Lucifero ricadde, aveva sei occhi, con cui muoversi nel gioco dei tarocchi, ed in un cesto di vimini teneva ogni conchiglia ed ogni suo affetto, tutto l'universo con cui fare cabaret. Quando Lucifero ricadde, era un gatto rosso fuoco e un lucernario, ed ognuno era fratello fra le tavole di Mendeleev e il crocevia, e percorreva le vene dell'ambrosia con topi ragno e pipistrelli fra i capelli. Quando Lucifero ricadde aveva un drago e sorvolava le rovine degli ultimi e dei primi, sapendo di essersi trovato là dove tutto veniva frantumato. E dalle terre di frontiera canzonava ogni bandiera, ed era la nemesi ed era il veicolo di chi gioca il gioco del funambolo, anche quando i più si arrendono al ridicolo. Terzo tempo. Ho camminato i sentieri dello spergiurio, sentendo l'infrazione e lo sfratto premere sugli alveoli polmonari ove si ossida la rivolta verso il maleficio di cui siamo eredi. Mi costrinsi nelle segrete ove s'ammala il quotidiano incontro con la luce del giorno, la cui dittatura abbiamo disciolto sino a schiantarci nell'ombra, nostra sorella e sovrana, sentendola gridare «Tagliati fuori, non farti trovare!» E così potrai osservare, reietto, chi si perde nel miele e nel marciume, mentre dipingi rosari di tessere astratte che non mostrano altro oltre a sé stesse. Così siamo noi, una collezione di quadri sciolti e pigmenti di colore che cercano una tela in cui cadere e attraverso cui possa scorgersi qualcosa in cui credere, oltre a tutto ciò che insegnano sia giusto credere. Una fede che non fa salti, ma è il salto nel vuoto in cui facciamo voto di svanire e di svenire nell'erezione e nell'elezione, attraverso gli specchi di tasselli del puzzle in cui si ricompongono le anime, come corpi strumento che inspirano la nostra ispirazione, seguendo le logiche sospese sulle apparenze e le casualità, mentre lastrichiamo le strade con gli occhi del sogno. Il buio ci sputò in seno a questa tessitura, ove rinascere consapevoli del suo sguardo, ragni equilibristi che si staccano dalla tela inerziale verso una nuova casa da cui ricominciare, mentre i nostri avi ci osservano attraverso le ceneri di quel rito funebre che è la memoria, le cui sconsacrate chiese siamo noi. Ultimo tempo. Il processo di abbattimento dell'individuo inizia con gusci di tartaruga e ceste di vimini, quel cesto che la grande madre ci pose sul dorso. La nostra resistenza interna, intestinale, interconnessa alla faglia vaginale, tra i miasmi e le fibrillazioni, nel brulicante formicaio che freme, risonante il clangore delle nostre inquietudini irrisolte e irrisorie, fra le graffianti grate gettate sul selciato, ove il colpo di fiocina ci spezza, ove cala la serranda sul cuore, rinserra il riverbero delle nostre emanazioni, fra le polveri sottili e le ombre cerulee, trafugandoci in quella misfatta in cui possiamo struggerci della nostra distanza distale da ogni cosa, in cui casca il senno come sota di vacca innanzi all'ineffabile. Siamo viaggiatori pazienti e insaziabili che si sfaldano tra gli acquitrini, nei liquidi amniotici e nelle cistifelle di concupiscenze inconfessabili. Siamo canali di scolo, transgenici, transeunti, transessuali, nell'agguato del focolare, volteggiando come balle di fieno e canestri intrecciati nella bramosia dell'arborescenza. La natura è il nostro enigma e il nostro stigma che ci corona e ci incanala tra i sentieri più sconnessi e ruderi inviolabili, dove possiamo violarci sicuri di non essere veduti da coloro che vorrebbero giocarci nel gioco degli umani, mentre ci smarriamo nell'errare e nell'orrore dello spazio vago e infinito attraverso cui ascoltare la voce del fondamento. Sotto ad ogni sottosuolo, sovra ad ogni sovrastruttura, più a fondo di ogni fondazione, ci congiungiamo alle nostre sorgenti, nel segreto di quella voragine che è la voce, coro in penombra che accende il focolare attorno a questa croce. Siamo prigionieri delle nude essenze, della nuda presenza che cerchiamo di dirigere invano, fugando nei campi e negli argani del vento in cui il nostro messaggio così risuona. I moti delle passioni hanno un linguaggio segreto, ristagna come una boccia d'assenzio, e la passione vive nella perdita e della perdita. Perciò fughiamo nei campi e negli argani del vento in cui ascoltare le risonanze del karma. Scusate se era un po' lunga. Forse troppo basso. Ok. Ok. Tancredi, come ha annunciato in maniera limpida. E niente. Andiamo. E se le teste dell'isola di Pasqua non guardassero tutte verso un'unica direzione? Se ognuna avesse una sua partner e si riuscissero a vedere solo fra loro? E se avessero orecchie solo l'una per l'altra e la loro bocca si schiudesse solo l'una per l'altra? In un'armonia di piante che sono germogliate nei secoli e che si raggiungono lì, all'aria aperta, ma protette dalla pupilla l'una dell'altra, una pupilla affine che si dilata per ingoiare l'amore dell'altra. E forse questa metafora ha rotto il cazzo. Forse non so gestirla. Forse sarebbe solo il caso di non vergognarsi e di dire che ti vedo ancora poggiata al cornicione di quella finestra mentre fumi la mia ultima Pall Mall, con addosso soltanto una lunga maglia con la faccia di Tapis. Il tuo Corgi ride con la bocca aperta. È il suo secondo compleanno. Nascondi il viso dietro la tenda. Quella tenda che mi ricorda che lì, a quella finestra, non ti sei mai affacciata, che in quella casa non ci hai mai vissuto. Forse è il caso che torni a casa. Tanto lo so. Ti rivedrò. In ogni donna con un naso simile, in ogni focaccia incominciata a mordere dalla crosta, in ogni persona che canticchia mentre va in bicicletta o sul ponte mentre porti a passeggio Tapis. In quel bar dove sorseggia Assenzio, senza zucchero. E poi nel mio letto mi aspetti, addormentata, ma dal mio lato del letto. Parto dal fattore che vivo perennemente il 99,9% della mia vita sotto un'ansia perenne. Questa sera sarà lo stesso, quindi fra i pensieri e l'ansia ora decido cosa esporvi. Lo faccio ininterrottamente in realtà di esibirmi davanti alle persone, quindi stasera potrei cadere in una crisi, ma voi non lo vedrete. I miei temi sono sociali in questo caso, quindi voglio, come ha fatto Jade, aprirvi a una visione della vita leggermente differente. Ogni volta che vedo la polizia tremo al loro passare disinvolto. Sanno di che terrore sto parlando. Ogni corpo armato, sicurezza come uguaglianza. Sanno di che terrore sto parlando. La mia non è polemica, è la sporca verità. Rivanga il passato, errori commessi. Dovremmo vivere oggi, anche se abbiamo mente per ricordare. Sanno di che terrore sto parlando. Galeotti, guardie sul posto, documenti dimenticati in cestini come differenziata. Corridoi senza temperatura, freddo quanto il rumore del ferro sui battenti, le ossa si gelano. L'ora d'aria è sul fine, solo rumori sordi, un tortore, la chiusa del giorno. Giudice è giudicato, senza morale. Se paga dazio si conta gli anni, se paga pizzo scontiamo i giorni. Costretti, muovere il cavallo fa il bene della torre. Come uscendo dalla coltre nella mia corte si trova come far spazio. Col seno del poi tutti giocano a campana, sui segni dei caduti, suicidi, sossidi, sorridi, come ricordava Cucchi. Torno presto, con scadenza, tempo di una sigaretta, ricordati il mare, amare senza amarezza. Mentre cala la fitta nebbia, tu resta, accadesse qualcosa all'occorrenza. Grazie. Ciao a tutti, sono Lorella. Questo è semplicemente un mio pensiero. Non so se considerarla poesia, perché questo dipende dal fatto che possa più o meno smuovere qualcosa, quindi giudicherete voi. Perché piangi? Mi sento il cuore a pezzi. Come se una matita l'abbia perforato, appuntita. La grafite ti fa male. Sembra innocua, fragile, frantumabile. Invece, se correttamente affilata, con la giusta forza, ti entra nella carne e lacera il punto più tenero e dolce che hai. Perché riesco a sorridere anche se mi sento così? Vorrei far finita, annullare il dolore. Mi sento sentirmi leggera e camminare tra la folla senza che nessuno se ne accorga che dentro non trovo mai pace. Purtroppo nascondersi non serve, soprattutto se stessi. Bisogna essere onesti con i propri sentimenti. Passerà. Come tutto si trasforma, anche tu rinascerai. Mi auguro di trovare pace, come quando ti addormenti accanto alla persona che ami. Buonasera a tutti, io sono Ioanna e il testo che vi porto stasera si intitola Blackout. Si spegne tutto, congestione involontaria o volontaria, poco importa, di fili. Sospesi gli ascensori, spenti i tram, i bancomat, i dispositivi, come il soffio delle candeline sulla torta. Poi buio, e proprio nel soffio e nel fumo dilaga il caos dei desideri. Nessuno corre più per andare al lavoro, nessuno corre più per andare da nessuna parte se non lo desidera. Il riposo viene liberato da ogni senso di colpa. Non esiste ritardo né anticipo, ma un tempo sposo della luce o del letargo. Pian piano sgattaiolano fuori iridescenti insetti prima sepolti, le antenne di una radio, carta da lettere, i corpi dei libri ritrovano le carezze. Nelle carrozze dei treni spenti si torna a sentire un acceso vociferare vivace, le persone si parlano, gente, le persone si parlano senza il tarlo dei telefoni accanto, tra le mani, sotto lo sguardo. Abiti lontano? Venite, ho una chitarra e una radio un po' sgangherata, ma funziona, funziona, venite! Così si esce dai treni, dalle reti scappano pesci, gli schermi con le pubblicità dell'Enel spenti e gli spazi della città paiono alieni, pare quasi di sentire i gabbiani, i semafori e le mandibole metalliche spenti, ridono le dita, lacci slegati, stregate le orecchie, ascoltano i gabbiani. Non abbiamo più i loro collari, né colliri. Camminiamo con i nostri ritmi, fuori da tutti gli algoritmi, account e profili, e i profitti, fumi, vapori, eclissi, e deliri, e corri, e deliri. Siamo una fiumana di esseri umani. E alziamo le pupille al cielo sgombro, al cielo pieno di stelle. Ciao a tutti, questo forse per me è basso, ecco. Ora mi sentite? Sì. Ciao, ok. Insomma, non volevo fare danni prima di iniziare. Ora? Più? No, si sente secondo me, perfetto, grazie. Prendo solo un piccolo momento di prefazione. Questo componimento deriva da un libro che ho scritto l'anno scorso, che si chiama Le lacrime di un monolocale, che è un viaggio intimo tra tutte le sfaccettature della casa. E porto la sezione dei tetti, che è comunque un po' una vista su quello che è il mondo al giorno d'oggi, e soprattutto con una punta di amore. Divido a metà le nostre persone, una parte è pura, l'altra è migliore. Tendo la mano per scoprire il tuo cuore, una nebbia continua respinge parole. Ti sento lontano, mi sussurra all'orecchio, mentre una mano sprofonda nel petto. Mi strappa il ventricolo, la vena aorta. Conoscersi è come aprire una porta. Una vetrata su di me, a volte mi piace, per quanto spaventi, ti lascia felice. Con il cuore aperto, ti guardo dormire. Quali panni oggi hai deciso di vestire? Funziona, funziona, mi sentite? Buonasera a tutti e a tutti, mi chiamo Christian, si sente? Sì? Si sente pure. Qualche interista? Sì, buh, vi fa cagare il calcio? Assolutamente? Basta, ci sta, va bene, ok, dici che due coglioni. Sono qui e non vedo la partita, ma c'è una poesia che si intitola All'Internazionale, per un'andata qualunque, di ottavi qualunque, di una Champions League qualunque. Sono allo stadio, San Siro, forte e chiaro, si sta ancora sullo 0-0, ancora. Ancora un'altra paglia e segnate, lustra scarpe o più probabile cappelle. Segnate, coglioni, vi prego, ho pagato 80 euro per sto posto in piccionaia, porco Dio. Ho detto e pensato, e una manica nera la curva di Iene al servizio di Scar applaudivano sincronizzati solo per qualche recupero palla. Perché? Perché applaudite? Cosa minchia c'è da applaudire? Ma questo l'ho solo pensato. Quel coglione di Arnautovic sbaglia a porta praticamente vuota. Delusioni sul volto dei tifosi microscopici e compatti. Allora noto che ho il loro viso, un ghigno anch'io, ma non segnato dall'alcol, che sono sotto antibiotico per il dente del giudizio. Sì, giudizio. Sono proprio come loro. Ah, come amara la cicatrice del leone debole, che crede cara la sua pelle simile la indossa a quella delle iene. Siamo bestie internazionali dal DNA malefico. Oh, sei quello, sei sempre quello della metafisica e del sacro. Dio, mondo, anima, riuniti in una squadra, un gruppo complicato per una inestirpabile disposizione naturale. Rete. Arnautovic si è fatto perdonare, noi manica nera, che non ha fatto tanti chilometri per te, ma ti ama di un amore irrazionale, ti ha visto vincere internazionale. Grazie. Sta per andare in Argentina quest'uomo, l'ha detto prima. Gente, state scrivendo, state appuntando, guardate che è fondamentale, questa roba è senza... Oh, bravi, fate vedere questi post-it, sventolateli, bravi, molto bene. Allora, adesso è il turno, sono salito qui perché volevo dire questa cosa, se ci rimango. Riccardo. Oh, ecco, grande. Allora, io mi sono svegliato oggi pomeriggio, tipo alle 18, ho aperto Instagram così di gesto riflesso malato e ho visto Radura Poetica, questa cosa qua che avevo già visto, intravisto, non potevo venire, ho detto beh, vado, no? Quindi mi sono visto, sono arrivato qua, non ho cucinato niente, non ho poesie, non ho pensato, però un quadernetto, perché tipo improvviso le poesie sul Naviglio, spero che mi avete visto, mi pubblicizzo, venitemi a vedere, cioè l'ho fatto spesso sul Naviglio, un banchetto, no? Nessuno? No. Non sono famoso, ok? Ci ho provato. Però un po' di... quasi 2 anni che lo faccio. E niente, quindi qualcuna me la sono trascritta. Pensando prima ho detto, leggo quella che ho scritto a Gina. Chi è Gina? Gina, se andate sul Naviglio, capito, non so se è ancora viva però, sta vecchietta col cane, che esce tutte le sere, anche a mezzanotte, a farsi la passeggiata col cane. E chiacchierando con lei, viene fuori che lei si chiama Gina, perché è un nome che non ha un santo. Suo padre era super leninista, cioè con i suoi amici era andato a vedere quando è stato successo in Cina, ha preso la macchina, è andato in Cina a vedere la rivoluzione, quindi ci credeva molto e ha scelto questo nome. E questa signora qua era molto disillusa e mi ha chiesto una poesia, perché insistevo, signora guardi, ma io gliela faccio una poesia gratis così perché ci chiacchieravo, no? E mi ha chiesto di fargli una poesia sull'etica, sulla morale, non mi ricordo, una roba del genere. Allora gli ho scritto una poesia pensando all'etica vivente, che è un concetto molto figo che se cercate su internet lo vedete. E ve la leggo, ma la trovo e ve la leggo. Grazie, non so usare un microfono. Un attimo, ci vorrà tipo... E inoltre questa poesia è una metafora, eccola qua, di una, cioè, è un parallelismo con una cattedrale gotica. Tanto che lo sapete prima che capite cosa dico. La speranza di una morale muove l'arte nella mano. Uno sguardo impone al sacro il giudizio intellettuale. Un insieme finito e mai coincidente con la volontà dell'artigiano, immutevole e statico, morto, all'impatto del fluire. La certezza del giorno, il sole infuoca, traspira un insieme di vetrini, le stagioni ed il vento ne modellano la sintesi, che ne illumina i petti, solenni custodi di sua essenza. Ecco qua. Davide Carretta! Uh-huh. grazie del cognome che non pensavo di meritarmi. Allora, io ho un problema con la simmetria, e cioè questo microfono che spende a destra da tutta la sera, quindi lo vorrei mettere tipo... O magari giù. No, ho due genitori. Era la battuta. Questo vi piace qui? Allora, la prima paraculata di stasera è che io avrei voluto recitarvi qualcosa di letto da un foglio di carta, ma ho finito la cartuccia della stampante. E quindi, vabbè, ve lo leggerò da questo telefono che a me non piace, ma insomma, già sono stato abbastanza paraculo. Grazie per aver anticipato il mio cognome, perché è di quello che vi vorrei parlare stasera. Dunque, io ho sempre voluto chiamarmi con un altro cognome. Carretta è fiacco, è debole. La carretta è la cariola, ma nemmeno la cariola, che quella infatti si chiama così. La carretta è una via di mezzo, un po' carro ma mezzo scassato, un po' cariola, insomma un mezzo piccolo, vecchio. Io se penso a una carretta la penso sporca di fango. Aia! Cazzo. Ma chi è stato? Sei stato tu? Chi è che mi ha tirato uno scappellotto? Ma ancora, chi è stato? Dai, stavo anche leggendo una roba, ditemi chi è. Sei stato tu? È stata tu. Dai, per favore, a parte gli scherzi, ditemi sinceramente chi è stato. Io. Come tu? Con l'Italia. No, vabbè, ok, una battuta. Dai, veramente, a parte gli scherzi, ditemi chi è stato. Io. Ed è diritto, per giunta. Di diritto? Sì, mi hai chiesto chi è stato e ti ho detto sono stato io. Aia! Di diritto. E chi te l'ha dato questo diritto a essere stato tu? Ma tu, loro. Non vi ricordate, nei secoli dei secoli vi siete messi d'accordo? L'unità, il re, la repubblica, la Costituzione. Sì, ma perché l'hai fatto? Perché posso. Mi avete dato il cosiddetto monopolio della violenza, è così che lo chiamate. E io posso fare quello che mi pare in questo senso, posso dare... E però fa male! Invece fa bene lo Stato a dare qualche scappellotto ogni tanto, ma è per proteggermi. Non riuscireste da soli. Sì, ma io non voglio ricevere uno schiaffo a caso, e invece adesso ne vorrei dare uno. Occhio per occhio, dente per dente. Pensa che da quelle parti anche quello è Stato, ma non ti piacerebbe. Ma no, ma lascia stare quello che è stato da quella parte. Io voglio solo dire che non voglio ricevere uno schiaffo perché non lo darei a nessuno di voi. E il buon samaritano, Non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. Pensa che anche quello da qualche parte qui dovrebbe essere, no? È stato. Mi dà un gran fastidio ogni tanto, E soprattutto non ti piacerebbe neppure quello, perché dovresti sempre porgere l'altra guancia. Sì, ma almeno tu ne sei immune, però. Senti, facciamo così. Tu sei stato a tirare fuori questa cosa degli schiaffi, io ero qui e stavo leggendo una cosa mia, fra l'altro. Sei stato tu a farmi violenza. Violenza? Non sai che cos'è la vera violenza. Pensa a quanti attacchi terroristici svento ogni secondo. Tutto facendo questo, ti proteggo un attimo, non hai la minima idea di che cosa. Quegli attacchi terroristici sono stato schiaffi. Anche quello, Sono stato anche quello, ma da un'altra parte. Sono schiaffi un po' più forti, ma esattamente come i tuoi. E ogni volta che qualcuno li prende, qualcuno li dà. E non importa chi è stato. Sarà. Però sono l'unico che può permettere a tutti di essere liberi dal pericolo. E dico a tutti, Tutti? Tutti, tutti. Sono l'unico che può garantire protezione e incolumità. Ma non è vero? Sì che è vero, non fare l'anima bella. L'anima bella? A me! Io! E allora Aldo Bianzino? Niki Aprile Gatti? Stefano Brunetti? Ti dicono niente questi nomi? Serena Mollicone? Riccardo Rasman? Marcello Lonzi? Davide Bifolco, Marco Guerra, Riccardo Magherini. Caius Boli, Christian De Cupis, Abderrahman Sali, Jefferson Tomalà, Giuseppe Laforé, Pasquale Guadagno, Aziz Amiri. Ti dice niente? Carmelo Castro, Riccardo Boccaletto, Simone La Penna, Carlo Saturno, Gabriele Sandri, Giuseppe Uva, Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Rami. Grazie. Come dice un mio amico artista, il palco è anche una bella opportunità e responsabilità da prendersi per poter prendere una posizione. Vi invito a sbirciare qualche storia dell'associazione contro gli abusi in divisa, perché questa rabbia che fa venire leggere le storie di come lo Stato fa quello che fa e di come lo Stato nasconde quello che fa, secondo me aiuta. Grazie. Andrea. Buonasera. Un po' di secoli fa, non racconto nulla di nuovo, un popolo mediterraneo adottò una corrispondenza biunivoca fra grafemi e fonemi, l'alfabeto insomma. E quel popolo fondò un tot di città in giro nel Mediterraneo e qualcuna anche nel vicino Atlantico. Avevano un vizio, perpetrato oggi da arabi ed ebrei, e non scrivevano vocali. Così questi pochi versi iniziano con tre consonanti, che fanno anche da titolo. K, R, L. Non è casa, ma resti, memorie, macerie, costruzioni incompiute. Lei disse, celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Allora resta, perché casa forse è qui o non è ancora, vuoto. Ci stiamo interrogando su cosa sia la poesia e queste parole che voglio leggere adesso nascono da una serata in una città che nessuno dei tre protagonisti, dei tre autori di queste parole conoscevano, tutti e tre ubriachi marci, tutti e tre convinti di saper trovare la strada di casa, tutti e tre pronti a litigare l'uno con l'altro, tutti e tre pronti a parlare, e siamo andati avanti fino ben oltre il mattino a parlare, e come tutti gli stronzi siamo finiti a parlare d'amore. Degli amori che non funzionano, degli amori in cui ci intrappoliamo o siamo intrappolati per nostra stessa volontà e della fortuna di avere degli amici ogni tanto che ci riescono a dire le cose in faccia e che in qualche modo cercano di aiutarci. Quindi la poesia che vi augura, ci augura, è di avere degli amici così e di saper essere degli amici così. Le parole originali erano molto più volgari, ma io ero ubriaco, quindi non me le ricordo, ho cercato di riportarle più o meno come erano, togliendo la volgarità. Lascia andare, lascia andare, lascia andare, lascia andare. Cazzo, lascia andare. Te lo hanno detto in così tanti modi da riempirci un dizionario. Lascia andare. Quando fa troppo male e solo un rancore nostalgico vi tiene ancora abbracciati. Lascia andare. Quando le unghie ti scavano i polsi, quando i treni non vi riportano a casa, quando non hai il coraggio, nemmeno il coraggio, di immaginare domani. Lascia andare, lascia andare, lascia andare. Lascia andare, cazzo, lascia andare. I quaderni non ti bastano più e i messaggi scavano mura che nemmeno sai più scalare. Che inganno velenoso l'amore. Lascia andare. Per te, per lei, per voi. Resteranno i ricordi belli, te lo prometto, e minuscole cicatrici di parole a farvi compagnia nell'ultima strofa di una canzone. Grazie. Ciao, si sente? Sì. Ok, allora in realtà mi piace di più farmi chiamare Claudi, perché è plurale, e perché mi chiamo Benedetti di cognome e ho pensato far ridere, no, poeti benedetti anziché i poeti maledetti. Allora vi leggo un sigillo e due poesie. Non lo so se è veramente un sigillo, ma secondo me sì, allora vabbè. Socio nella converticola dinamitarda, il cui potere è aprire ciò che è chiuso e chiudere ciò che è aperto, con queste azioni affranco la mia famiglia, mosso da profondo senso di giustizia. Diciamo una dichiarazione di intenti, dice. Questo qui, per rimanere in tema, diciamo, di giustizia, diciamo di fatti e di potere di Stato, allora ho detto, mo leggo questo, si chiama coatto. Perché coatto è proprio un verbo, no? Fatto per forza, diciamo. E una volta mi è capitato che ero rimasta indietro con un affitto di M&M, mi era arrivata la letterina un po' greve, ah, se non ci paghi te lo togliamo in modo coatto. E anche l'altro giorno mi è arrivata un'altra che sono indietro di 0,04 centesimi e mi devo anche sbrigare a tornare in bolla, se no mi sale la mora, mi ha fatto un po' ridere. ragazzi, brutta storia. Allora, mi porto a spasso da solo e chiudo il cancello malconcio e farraginoso del tetro parco teatro di fiere al trotto. Mi sguinzaglio con la fantasia, immaginando se la mia personalità giuridica fosse sincera come la botanica di questo prato calvo. Per lo Stato è lecito essere coatto e allora, se io sono Tamarra, non mi si può rimproverare. Niente, questa qua invece si chiama sorbe, che sono dei frutti. Ho scoperto leggendo un libro e allora, niente, questa è un po' più enigmatica. Così. Si dà il caso che conosci il mistero dei nomi e sai che i più bellicosi restano i centauri e che intercorre una certa differenza tra il rapporto mitico e quello botanico. E mi confessi di quella volta che hai sentito latrare il cane e la pavoncella cantare e correre il capriolo bianco a smembrare crochi in fiore. Ti voglio raccontare una storia. Pruriginose piume alle fronde del tasso stanno lì, sospese dalla passata stagione. E le sorbe selvatiche combattono gli alberi bellicosi dei signori ipoctoni, dediti all'esogamia coatta. Golosi di sambuco ubriaco, pel terriccio umido e ricco di sostanza azotata, pasciono dissennati. Sporto l'orecchio al sonno, è lì che mazzi di savi druidi hanno sussurrato parole ominose di megalitica sepoltura. Ricorda di custodire, camuffare e nascondere il segreto. Grazie. Lo stativo. Eccoci, buonasera, auguri ancora a Exalge che ha compiuto 5 anni da pochissimo. Sono Leonardo e porto una poesia un po' lunga. E l'altra volta ho introdotto, diciamo, nel mio repertorio questa figura del postino poeta e lo ripropongo anche questa sera. Se fossi postino e poeta, di un comune più piccolo di Gaeta, da girare in bici tra le frazioni e i vocaboli. Ma siete mai stati a Gaeta? Se fossi, sarebbe la mia prossima gita. E scoprirei che la bandiera del comune è uguale a una bandiera nautica, quella che avvisa: state andando incontro a un pericolo. E alla mano del turco ripenserei a Nazım Hikmet, che chissà da dove scrisse: il più bello dei mari è quello che non navigammo. E sul Monte Orlando incontrerei Angelica. Ritornato a casa, cercherei in dispensa il coraggio per spedirle una lettera. Una di quelle che trovo sulla riva dei sogni, portate dall'onda dopo chissà quale naufragio. Dormono anche i colori, quando è notte e tu non ci sei. In un buio profondo di suoni consueti che non dormono mai. È così che ti sogno intuendo un contorno, una costellazione, credendo nella prospettiva una forza attrattiva più forte del sole. E tra carillon di pianeti e hardware spaziali, tra le coreografie di materia e meteori astrali, la poesia di un pastore di sogni ti venga a cullare. Canopia di lampare, impassibili a bassa ed alta marea, ancorate a un fondale attorno a una vela che sembra la tua, che cuci ogni giorno e poi disfi, sperando che torni da te. Ma ho perso il sestante e questa corrente non so se va d'est. Sulla carta ho tracciato una rotta nella quale sussurra la tua voce lontana, vicina quando soffia il grecale. E come uno scafo l'aratro increspa la terra, ingannando le nuvole del tempo riflessi nel mare. Ho strappato alla rosa dei venti anche l'ultima spina, nel giardino di bruma e di brina che sembra di sale. Ho offerto del pane e del vino ogni goccia di pioggia, per poterti, davanti al camino, sentirti cantare. E così questo ghiaccio sublima e ritorna a vapore, e dal chiuso all'addiaccio ritorna, liberando calore. In ogni confine ho tolto dai fili le spine, perché sappia d'amore la luna non conosce confine. Grazie. Allora, un secondo. Allora, cioè, scusa, sono un po' timido. Allora, questa è una poesia che riguarda una relazione che ho avuto, durata qualche anno, con una ragazza. In questa relazione, appunto, non ho mai detto a questa ragazza di amarla, nonostante stessimo insieme per tanto tempo, e lei mi diceva di soffrire di questa cosa, e questa è una poesia che riguarda questo. Si chiama Amore. Si chiama omonimo. A mia insaputa qualcuno ha scritto che ti amo in lettere postume. Con la certezza ausiliaria della fine raggiunta potrei anche io non temere la spaventevole occasione di incrociare i tuoi occhi. Volevo morire per non sprecare l'effettualità del così impronunciabile desiderio di eternità in sincerata formula di giuramento, ma schivo all'avventura, alla deriva non impossibile, di nuovo mi arrocco nella vita, imprescindibilmente futura quanto incerta, a cui non lice preventivare eterni minuti di appuntamenti ininterrotti dalla contingenza pretestuale di un caffè o dall'inezia stravolgente di un qualsiasi capello, confine caduto tra noi, piccole timide mosse ed il gambetto era servito, segregato nei convenevoli di un quotidiano inespandibile, durare in questa fortezza di inusata precarietà, di infelice fermezza. Così porto il mio nome, il mio dire tra i vivi, le parole che ti rivolgo sono la pena accomodata di un Lazzaro. Grazie. Meglio, è la prima volta, siate clementi. Tra l'altro, ciao, ma che cara. Tra l'altro, sì, così mi sentirò meno a disagio. No, per davvero, in realtà. Allora, non so se scegliere quella lieta o quella mesta, diciamo, non lo so. Tutte e due. Mazza. Allora, quindi cominciamo con quella mesta. Allora, si intitola La donna coglione. Sono un granchio senza padrone, chiuso qui nel mio antro, e sotto coperta guardo un mare distante. Respiro da un solo polmone, aria che vizio solo ogni tanto, libero dal pensiero costante. Come un anfitrione nascondo l'inedia al mio pasto e della mia pancia lascio socchiuse le ante. Mi barcameno col solito copione, prima il lavoro, poi il meritato astio, e infine nel letto mi abbevero di lingua dissociante. Se posso, ammetto, come un coglione, la memoria incagliata in qualche sasso, baratto per amore in materialità rassicurante. Mi manca di suonare solo la donna cannone, potrebbe muovere persino il Papa verso il Camposanto, ma cedo allo spergiuro di un'anima assai più pregnante, mentre per disseminazione coltivo il pianto e lascio che, gonfia di sete, mi dimori l'infestante. Beh, no, se volete la leggo quella lieta, perché questa è un po' pesante. Ecco, sì, perché era un po' pesante. E bastone e carota, è giusto. Allora, invece questa si chiama Ragazzo di vita. Sole, l'aria si infrange sulle tempie rasate, la scaldi col fiato fra le lunghe pedalate mentre scendi lo slalom gigante sul selciato. Ignori di essere stato notato da una miniatura che si affanna divertita. Ti precedono le sue piccole ruote risate. Affiancarti è la partita. Poi, in un lampo, ti vince. La guardata sorniona, un gioco, una gioia presa col manubrio fra le dita. Ehi tu ragazzo, ti dice, e con la primavera ti sopraggiunge la vita. Grazie. Allora, anch'io leggo da cellulare perché in realtà ero venuto per sentire un mio amico e poi, visto che c'era una bella situazione, ho pensato di leggervi anch'io due cose. E la prima è una poesia che ho scritto quando ho pensato di aver incontrato quello che era il vero amore della mia vita e quindi volevo un po' spalare merda sugli amori prima. Poi ci siamo mollati anche con lei, però questo è un altro dettaglio. Potrei dirti, potrei, che non ero nessuno. Nel vento di ieri. Solo ho vissuto in mille pensieri e ogni battito esploso in cuori stranieri era premessa a questo respiro. Potrei dirti, potrei, che finalmente sono e forte respiro quest'aria che brucia i polmoni, che sbatte le porte ed esplodo i miei battiti e fremo i miei brividi e il passato risuona, vago ricordo, nel fragore nel cuore. Potrei dirti, potrei, che sono l'amore e che mai prima avrei dovuto chiamare quella vaga goccia leggera che tu hai trasformato in mare, amore. Questo ti risponderei se nei tuoi occhi, infiniti pozzi, leggessi chi sei. E la seconda, invece, per abbassare un po' l'intensità, una sera ho visto la TV con i miei genitori tanti anni fa, brutta scelta, e dopo un po' di pessima televisione in cui tutto veniva trasformato in intrattenimento, anche ciò che doveva essere politica o critica sociale, ho aperto la raccolta che, avendo fatto io lo scientifico, è purtroppo numerata. E avevo scritto la 68 e dovevo scrivere la 69. E quindi queste due cose, la, diciamo, resa di intrattenimento di tutto ciò che esiste nella società di oggi, e il fatto che mi servisse una poesia numero 69 ha partorito queste quattro righe. Se il fine è solo ludico, per goderne tutti insieme, disperdo il mio seme masturbandomi in pubblico. Grazie. Ciao. Ho recuperato questa poesia da questo librettino. Non so se è una poesia delle mie più riuscite, ma va bene lo stesso, perché il mio cellulare è scarico. Quindi, questa poesia si chiama Cosa ho scoperto che conta davvero nella vita. È una poesia che nasce da un lungo periodo di disoccupazione, per fortuna finito. Per fortuna, oddio, si stava bene, però nel senso, prima o poi si torna sempre. Anche dopo questi anni incessanti, il mio rispetto si rivolge alle persone semplici, non piegate dallo scontro quotidiano con la vita. Coloro che non hanno privilegi, vacanze in inverno, biglietti per mete esotiche. Poiché io, che ho provato ad avvicinarmi al sole, mi sono sempre sentita un impostore. Pensando che chi si crede migliore soltanto perché è più fortunato. Io questo non l'ho imparato, eppure mi disgusto di aver desiderato una felicità così disonesta, un miraggio che non mi era stato concesso, una promessa che nasconde una bugia, una falsa sicurezza, un castello di invenzioni, di ingiustizie, di convenzioni, senza sapere dove sorge il sole e dove l'acqua è più chiara e la frutta è più dolce. Ciao, è la mia prima volta e sono molto imbarazzata. Quindi... Ok, continuo ad essere imbarazzata, ma sento il vostro affetto e lo ricambio con una poesia che si chiama Gentaglia. E siamo noi. Noi che viviamo un po' sul limite della vita. Ok, si sa che i poeti hanno tutti un brutto carattere. Dicono di andare cercando la verità e invece se la scrivono a loro gusto e piacere. E prendono tutto sul personale, come se il mistero della vita li riguardasse. Odiano i dizionari e sono pignoli. Ad ogni parola farebbero corrispondere tutti i significati. Hanno i sensi un po' guasti. Le cose del mondo sfuggono loro. Ma ogni sogno infranto ha lo stesso fragore di un tavolo in noce che cade dal quinto piano. Ho una domanda. Ma ci dica tutto, Mattia Solimano. Quanti nomi dobbiamo scrivere? Esatto, allora. Non lo so, cioè, se vi sentite che sono più di uno, mettetene più di uno. Non mettetene 70, cioè, mettete 2, 3, compite una scelta, insomma. Sì, va bene. Tanto poi quelle che devo contare sono io, no? Va bene, vanno bene anche 7. Allora, gente, adesso vi è chiesto di fare questa cosa, ok? Quindi... vi diamo 5 minuti per ponderare, se volete financo dibattere, ok, su quello che avete ascoltato, ok? Se volete confrontarvi addirittura magari con i poeti, chiedergli qualcosa, mi raccomando, poi il frutto di queste lucubrazioni deve finire sul bigliettino, ok? Dica! Certo, ma certo. Allora, tra l'altro, adesso vabbè, vi dico due cose. Allora, giro di nomi. Quando dico il vostro nome, alzatevi, ballate, insomma, fatevi notare. Se no, solo col nome. Jade. Uè, allora. Va bene. Giorgio lì, in fondo, Luca Galimberti. Lì, esatto, Chiara Brogi, con nome e cognomi, ragazzi, Chiara, giusto, Brogi? Incredibile. Assunta, come vedete non è in ordine di apparizione, Godil, giusto? Michele Piaggio, lì Ernesto Tancredi, Gianluca, Lorella, e gli applausi però non possono scendere di intensità. Esatto. Joanna, Maria, ah no, questi non c'erano. Maria, Nina, Omar, fino a Christian che c'era. No, mi sono perso. Okay. Marco, lì. Luce, non c'era. Riccardo, lì, esatto. Davide Carretta e lo Stato, che sarà stato lui o no, chi lo sa. Andrea. Greg, che l'è lì. Greg, Claudi, Leo, Vittorio, Ste, Paolo e Anna. Bene. Qual era il terzo nome? Ah, va bene. Comunque, un'ultima cosa. Un'ultima cosa. Adesso voi ponderate, scrivete. Volevo dirvi che siete bellissimi. Ok. Oggi c'era un'attenzione incredibile. Chiunque è stato qua è stato fortunato perché ha avuto un pubblico veramente attento. Se vi va di continuare a frequentare queste situazioni qui, c'è la pagina di PEM dove facciamo picnic poetici, altre cene poetiche, insomma, tutto un insieme di roba. Oltre a frequentare la pagina di Exalge, che tra l'altro ha come tema, magari mi correggeranno, però hanno come tema che stanno un po' esplorando il tema dell'abitare. No, a me ci dicevano questa cosa qua. E noi in qualche modo vi stiamo abitando il salotto. Abbiamo trasformato in una sala da pranzo. Da cena? Vabbè. Una sala poetica. Quindi, adesso voi scrivete quello che dovete scrivere e poi nessuno ci vieta di fare un secondo giro. Quindi, chi volesse che cazzo, certo, qui mica si scherza. Quindi, se volete recitarci altro, valgono le stesse regole di prima. Bella raga, ci si vede fra 5 minuti. So che per i fumatori vuol dire andare a fumare, ma vuol dire scrivere quei maledetti bigliettini. A dopo. Bene gente, bella gente, tornate. Ma questo, ho come l'impressione che questo vada meglio. Va meglio questo o meglio questo? Ah, che bello, eh? Andiamo a prendere una boccata d'aria e tutti fumare. Sì. Chiaro, è un'argomentazione che secondo me regge poco poi sul lettino della rianimazione, ma se vuoi. Dottore, comunque è rare. Va bene, vi aspetto. Su, Yun Pei Yun e passa tutto il battaglione, avanti. Qua, sto gruppetto, dove è finito? Mi dica. Ma lei per caso vuole sapere dove si trovano le informazioni per i nuovi eventi delle cene poetiche? Ma certo che glielo dico, sulla pagina Instagram di PEM. PEM. Cercatela, seguitela, siamo bellissimi. Io ho scritto delle robe sulle lettere di carta, ma anche sì, c'è qualcuno che ha fatto, però che lavora in redazione delle... no, tra l'altro Federico Fagotto? No, non lo conosco. No, però Fede, che è anche il gestore della Corte dei Miracoli, è uno dei PEM. Tra l'altro io chiederei un applauso agli altre teste di PEM, ovvero Mattia Solimano, mi ha aiutato a conteggiare i vostri nomi. Anna Riti, che dov'è? Dov'è Anna Riti? Eccolo qua, Anna Riti, che... Francesco Pipitone! No, sì, e Federico Fagotto e Francesco Conti, che era Granata, va bene. Bene, gente. Dai, che mi sono segnati? Devo dire che i voti a sto giro erano molto ben distribuiti. Cioè, bravi, bravi. Questo è un segno di ottima attenzione. Allora, partiamo dal terzo, secondo, primo posto. Chiederei, esatto, un tremare crescente. Al terzo posto, Jade. Secondo posto, Davide Carretta e lo Stato. E al primo posto, Claudi! Bravo, Claudi! Poi, non sparire, perché dammi quella poesia, come già prima esprimevo il desiderio di averla, ma ora ho la necessità, quindi bene, grandissima. Allora, io direi di far iniziare la seconda parte, se vi va di continuare a condividere poesie, beh, il momento è questo, quindi il palco vi brama, io idem, quindi grazie perché avete cucinato, avete portato da mangiare, questa è una cosa, sembra banale, sembra semplicemente per riempire la scenografia, in verità è proprio un gesto bellissimo cucinare per gli altri, quindi grazie per chi l'ha fatto, grazie per chi ha comprato in giro, continuiamo a distribuire Milano di queste meraviglie, quindi palco libero a voi. No, ragazzi, questo spazio lo prendo per ringraziarvi. Sono un attimo, cioè, sconvolta, sinceramente, intanto. No, poi, vabbè, diciamo che vincere... No, vabbè, secondo me stasera tutte le persone che hanno deciso di stare insieme, ad ascoltarsi, a stare qua insieme, hanno vinto. Fa un po', no, fa un po' Miss Universo, vabbè. No, nel senso che non sta cosa del vincere, non è che... Quindi, così. Grazie. No, grazie a voi, sono un attimo... Non tutta rossa, non so se guardavate Celebrity Deathmatch voi, no? Sai quando mi sento esplodere la faccia, penso, ma esplodo tutta di imbarazzo. No, quindi grazie... No, facciamo un giro tutti, non è che faccio il giro... Io, basta, grazie. Grazie, bravo tutto. Buonasera nuovamente. Allora, adesso, se volete venire anche un paio, il primo sono Pensieri Confusi che ho scritto oggi, sempre in preda all'ansia che vi dicevo precedentemente. Rododendro, rogoredo, rotolando verso sud. Asserehe, eha, ehe, ehe. Le seghe di mia nonna non le fa nessuno, il numero uno, boogie boogie, hihi. È la paranza, la monaca di Monza, quella sulla mia pancia, o forse aria, o forse ansia. Mi sono dimenticato, mi sudano le mani, porca troia, manca l'acqua alle piante, corro, vengo, svengo, cataplessia. Maronna, uso il palo santo, così scaccio gli spiriti. Sei le bad influence, un'utopia. Ieri ho masterizzato il gladiatore in 3D su un floppy. Serio, per vederlo devi andare in ascensore, cliccare 4 volte sul tasterino del telefono, arriva Franklin e giocate a FIFA. Grazie. Io voglio disturbo, non volevo farlo questa cosa perché è troppo bella ciò che ho appena sentito. Allora, no, mi piacerebbe leggere un'altra piccolissima. È una piccolissima poesia che parla di un confronto tra un barbone e una tipa di Radical Chic che lo guarda dal ponte. Immaginatevi tipo il Tevere o il Navigli, cioè un po' questa vibe qua notturna. Una donna di luce dalla cima d'un ponte adornava gli occhi con le mie forme per capire come faccio a fare ciò che faccio. Ed io, che temevo spettatori, onorato performavo. Occhi grandi, convinti di saper navigare. Io che a bordo fiume davo lezioni di pesca. Lei che immobile cercava il mare giusto. Ho costruito con mani sporche la mia casa. Ah. Con mattoni trovati in fondo allo stomaco e qualche lisir per dipingere la luce. A mani velluto che studiano, che frugano, avvolgono il freddo limite tra lei e la corrente che la porterebbe via, forse via con me. Lasciai che la sua domanda potesse scorrermi nelle vene sul chi dei due sapesse in vero nuotare. Oggi è così, oggi mi sento euforica. Vediamo se questa volta riesco a guardarvi negli occhi, perché prima proprio non ci sono riuscita. No, questa è quella di prima. Ok, allora. Ci sono giorni in cui vorrei sparire negli abissi della mia ragione e andar giù. Trovare tutti i pensieri che nuotano all'impazzata, sbandano, si scontrano, distruggono, sono impossibili da catturare. Ma da dove vengono? Chi è colei che li partorisce? E perché fanno così male? È come avere una zavorra, dei pesi, dei sub per non galleggiare. E invece vorrei riprendere fiato, salire in superficie. Respirare l'aria marina, pulita, salata. E invece l'acqua mi riempie pian piano i polmoni e mi rende pesante e non potendo più nuotare, ferma, mi lascio andare, giù, scendo per non risalire più. Fine. Sono più felice di come scrivo comunque. Grossa. Allora, perdonatemi, mi sento pessimo perché scrivo al telefono per poi rileggermi e sperare di incontrarmi. Come vagoni di pensieri, scarico merci e scarico merda sugli altri. Ma che te frega? De. È il massimo dell'espressione, è il mio tasso alcolemico che decide quando io possa scrivere, anche se sono lucido. L'ansia è una droga gigantesca. Come pensi di stare adesso? Guarda, guardati. Sai che sono vergine e lo sarò per tutta la vita. E... Grazie mille. Questa volta vi leggo una poesia. Ed è una poesia d'amore che ho scritto quando ho capito di non amare più quella che all'epoca era mia moglie. E l'ho scritta, lei era appena uscita di casa, io non l'ho inseguita per la prima volta, invece mi sono messo a scrivere questo. Amami come se potessi amarti. Nutriti del tuo amore come se fosse frutto del mio. Amami, poiché non posso sopportare di essere trafitto da altre frecce di Cupido. Amami, poiché io mai potrò concedermi questo vizio. Colma la tua vita d'amore, in modo che traboccando possa dare un senso alla mia. Amati. Fine. Ci sono persone che se ne vanno, non scappano, se ne vanno, e ti guardano indietro, e sorridono, e vanno via comunque. E lì capisci che la tua paura a tenerti qua, incancrenito e abbandonato, senza nessuna possibilità di andare via. A volte, dopo qualche anno tornano, ed è nel loro sorriso, in quella nostalgia bastarda, che scopri i confini di quelle che sono soltanto le tue paure. Quaderno strano contiene cose dell'altro mondo e ho cercato un po' di trovare qualcosa di comprensibile. Leggo una poesia corta stavolta. Spira il vento nel retroscena al capochino che ascolta ed accoglie scremando la discernita e l'indagine. Nel dedalo mistero i cui dolori inducono alla cerca e al dolo d'ognuno. È alla miccia che ne accende il fermento. Cerca con la lente l'immagine minuta e di fiochi sospiri alle memorie dannate, con gli arcolai e le immagini indiziatiche, sulla trama che ci ispira e traspira a detenzione del mistero e dell'avvento, tenuto latre nel pasteggiare del giorno, che l'animo rinviene tra le carceri della luce battente. E nel moto della carreggiata, nel gioco delle parti, in cui le mascherature gemendo sorridono alla via tramontana, bella e perduta, oltre la filigrana. Scusate, forse era un po' complicata. Non so. Volevo leggere due poesie di Patrizia Cavalli. Quella nuvola bianca, nella sua differenza, insegue l'azzurro sempre uguale. Lentamente si straccia nella trasparenza, ma per un po' mi consola del vuoto universale. E quando cammino per le strade e vedo in ogni passo una partenza, vorrei accanto a me un bel viso naturale. Poi quest'altra che era, la cerco, era una poesia sul cadere. Aspettate che la trovo. Ok, ecco. Cado e ricado, inciampo e cado, mi alzo e poi ricado, Le ricadute sono la mia specialità. Cos'altro ho fatto che fingere di uscire e ricadere dentro? Nessuno mai che io trascini insieme a me cadendo. Grandi equilibri mi circondano, ma non mi reggono. Anzi, proprio perché io cado, si sorreggono. Com'era bella la coppia di vecchi innamorati che sotto braccio, volendo misurarsi per duplice entusiasmo con la catena che chiude Ponte Sisto, sicuri che quel restare insieme li avrebbe sostenuti, caddero invece insieme, ancora sotto braccio, non umiliati, ma certo stupefatti di come quello stare perfettamente in due li avesse sbilanciati, e però grati comunque l'uno all'altro di essere in due, che nessuno dei due vedesse l'uno salvo cadere l'altro. Scusatemi ragazzi, tanto non mi vedrete mai più. Allora, dato che mi piace molto la storia, ho scritto una piccolissima poesia. Questa è una poesia che ho, vabbè, insomma, mi piace la storia, mi piacciono le guerre, e quindi questa l'ho cercata di dedicare a quello. Quindi tutti quegli appassionati di politica, insomma, sì, magari potrebbero interessare maggiormente, non so. I bambini scendono in battaglia, abbandonando caldi madri coperte. Abilitato è l'arsenale di neve, che come preghiere armi si scioglieranno, addormentandosi per sempre. Verranno scoperte radici di spinati arbusti, padri di rami fucili, che mai tanto freddi, verranno in braccio ai maturi, che come frutti, corpi cadranno, addormentandosi per sempre. Ciao, si sente? Ok. Sì. Questo l'ho scritto ispirandomi al mio libro preferito, che è Le città invisibili di Calvino, così ho provato a scrivere la mia città invisibile, che si chiama Eidola. Chi entra a Eidola pensa di entrarci da solo, ma non sa che oltre la porta di quella che sembra un'unica città si scoprirà duplice. Eidola è sempre stata nascosta, non è facile trovarla, si mimetizza nella natura, ma ecco che se per caso uno la tocca, si accorge che tutto ciò che lo circonda non è altro che un riflesso dell'intero. Di questo è fatta Eidola. Chi la scopre si rende conto di esserci dentro e non lo sapeva. Chissà quante città ha chiamato con altri nomi e che non erano altro che Eidola. Quando vi si giunge, tutto appare chiaro. Restituisce la vista sull'altra metà del mondo che non poteva essere conosciuta fuori dalle sue mura. Ogni cosa Eidola esiste due volte. Le strade hanno doppia direzione, sono doppi gli echi delle voci e delle risate, perfino i corpi sono doppi e hanno doppio nome. Non sai mai di fronte a chi ti trovi quando incontri un eidolano, e nemmeno lui saprà mai quale parte di te ha appena salutato, se quella che tu credi autentica o quella che gli è giunta per prima all'occhio mentre se ne sta appoggiato al semaforo rosso in un incrocio qualunque del mondo, che il perimetro di Eidola certamente circondava. Non si può andare via da Eidola. È una città che svela tutte le possibilità al prezzo della sua condanna. Mostra tutto ciò che potrebbe esistere, ma non dice la verità. Rende liberi, ma paralizza. Il suo compito termina qui. Una città non può scegliere. Io ho un conto in sospeso. Allora, intanto grazie dei voti. Io vorrei dire grazie all'autore del testo, che non sono io, che è Mattia Solimano, che è autore, nonché ottimo corpo nel ruolo di... com'è che era? Italia. Allora, fatta questa debita premessa, tornerei a parlare del mio cognome. Perché io ho sempre voluto chiamarmi con un altro cognome. Ma se io parlo così, mi sentite? Perché lì c'è... Vabbè. Carretta è fiacco, debole, perché la carretta è la carriola, ma nemmeno la carriola, che quella infatti si chiama così, la carretta è una via di mezzo, un po' carro, ma mezzo scassato, un po' carriola, insomma un mezzo piccolo, vecchio. Io se penso a una carretta, la penso sporca di fango e con la vernice scrostata. L'ultimo dei più infimi mezzi per trasportare le cose, l'ultima ruota del carro, appunto. Oppure, grande classico dei commentatori degli altrui cognomi, carretta, ah, come la tartaruga. Sì, come la tartaruga, carretta, carretta, esatto. Sorrido anche quando lo ripeto per l'ennesima volta. Però la tartaruga ha una R sola, tiè, tartaruga di merda. Io almeno ho la doppia R. Peccato, però, perché la R è una lettera tosta, tanto più quando è doppia. Soltanto che in carretta il potenziale della doppia R finisce diluito in mezzo ad altre lettere insignificanti e il coefficiente di autorevolezza del cognome crolla. Tanto per cominciare, non è l'unica doppia, c'è quella doppia T in fondo che in mezzo alla E e alla A trasforma il cognome in un diminutivo. Carretta. Io alle medie avevo un compagno che si chiamava Paolo Carra e io ero Carretta e venivo dopo di lui nel registro di classe, però a scuola era scarso, più scarso di me. Tiè. Quindi, dicevamo, il mio cognome chiude male, con un diminutivo poco incoraggiante, soprattutto se giochi a calcio e fai il terzino. Non è una bella presentazione chiamarsi Carretta e dover essere quello che in campo corre più degli altri. Eppure è un peccato perché parte bene, con una C dura, coraggiosa, una A che è pronta ad accogliere finali di cognome di gran lunga migliori, tipo Carboni. Sentite com'è autorevole, un po' tetro, però ardente. Oppure Carrera, lussuoso. Anche con una R sola, funziona uguale. Carrera è arcigno, a me fa pensare ai mattoni. Carrera ha la barba di tre giorni, ma si vede che è così perché è stato tre giorni in barca a vela a cazzare rande sotto il sole. Carrera con la barba di tre giorni è un capitano di lungo corso. Io con la barba di tre giorni sembro un coglione. E anche se sto due mesi in barca, la barba di due mesi è uguale, spelacchiata come quella di tre giorni. Un carretta con una simpatica barbetta. Simpatico, il carretta. È rotto, carretta, si incrina subito fra le doppie che si pestano i piedi. Anche la storia delle doppie mi ha sempre accompagnato. Ogni volta che dico il mio cognome lo faccio seguire da una precisazione di cui, peraltro, probabilmente non c'è nemmeno bisogno, ma che i miei genitori mi hanno trasmesso. Carretta con due R e due T. Bene. Forse si sente, non lo so, non c'è bisogno di specificarlo, vero? Però meglio andarci cauti, anche perché peggio di carretta, forse, c'è solo caretta. Con una R sola. Nemmeno ci prova Caretta a non essere un cognome miserabile. E poi c'è un'ultima questione, che è quella della E al centro. Perché il cognome è di origine lucana, quindi la E è aperta, Carretta. Recentemente però ho provato, siccome non sono soddisfatto di questo cognome, ho provato a pronunciarlo secondo la dizione, cioè con la E chiusa. Ma mi suona male, sono 30 anni che lo pronuncio Carretta, mi suona male a pronunciarlo con una pronuncia diversa da quella milanese. Però mi sto sforzando, cerco di darmi un tono, sperando in qualche modo di dare lustro al mio cognome, di colpire chi ascolta. Vorrei quasi chiederlo al tizio dello sportello a cui sto dando le mie generalità mentre rifaccio la carta d'identità. Che cosa ne pensa? Ha notato che ho detto carretta? Quale dei due mi sta meglio, secondo lei? Quale dei due mi fa sembrare più bello? Quale dei due più autorevole? Quale dei due più intelligente? Però dall'altra parte dello sportello non mi pare che ci sia grande sensibilità sul tema e la risposta che ricevo è Davide Carretta, data di nascita. E fra l'altro loro riescono a pronunciare il cognome con una E che non è né aperta né chiusa, quella via di mezzo che non è né la E originaria né quella corretta. Corretta, forse. Boh. Come dire che a loro di questo mio problema interessa ben poco. Stetur, Battiston, Kramer. Sentili che bei cognomi, sono statue, macigni a proteggere il tuo nome. Io vorrei, ecco, un cognome che finisce per consonante. Grazie. Allora, questo è la Dea Bianca di Graves, Ale, allora, siamo a pagina 135 e c'è questa cosa importantissima che voglio condividere con voi. Acab, invece, in ebraico significa locusta. E i greci dell'Asia Minore consideravano la locusta dorata un emblema divino di Apollo, il dio solare. Ok, attenti, eh. In un'altra poesia, questo, non so, questo però è difficile, Divreguard Taliesin, Guion chiama Gesù figlio di Alfa, il che significa fare di Gesù il figlio di Acab. Ok? Dal momento che in questo alfabeto Acab equivale all'alfa greco. E poiché Gesù è figlio di Dio, cioè equivale a fare di Acab un sinonimo di Dio. Volevo farvelo sapere. Allora, niente, a pagina 135, è decontestualizzato, ma secondo me comunque è importante da sapere. Ok, rieccoci. Vi leggo l'ultima poesia prima di scappare. 17 novembre 2024. Tragedia sulla M1 a Milano. Donna si suicida gettandosi sui binari a Duomo. Il macchinista ha cercato di azionare la frenata d'emergenza, ma è stato inutile. Linea rosso a lungo sospesa tra Cairoli e Loreto. Soppeso il silenzio dietro alle sbarre. Immagino i piedi sul ciglio. M1 sospesa. Recitano voci in giro. Il passo di un funambolo sul filo. Lo spazio di un bacio non dato. Il muto grido di un figlio. In un pomeriggio di novembre la sua figura evanescente scende le scale senza più rinvio. Persefone saluta il suo silenzioso amante, apre le ali e sparisce in un sospiro. Chissà quante volte Persefone in questa città ci hai perso le ossa, chissà quante volte hai preso la rossa, preso la rincorsa in questa vita che non chiede sosta. Persefone distende i palmi, non recita salmi, sparge le sementi della sua vita sui binari. L'aria, dopo il suo ultimo respiro, rimane sospesa, inghiottita dal cigolio. Mille pupille balenano nella rossa, scosse da un improvviso capogiro. Persefone non si è più mossa. Chissà quante volte hai sbirciato il tuo riflesso muto, galleggiare nei finestrini della metro per poi salire le scale a Cadorna con lo sguardo solo avanti, mai indietro, ed essere travolta dalle melodie di un musicista, riemersa dal sottosuolo un'altra volta. M1 sospesa. È domenica. Milano oggi non è frenetica. Il cielo è azzurro, tiepido autunno sulla terra. Invece qui, sottoterra, dove tutti sono di passaggio, con i tappi alle orecchie e scappano, hai scelto, Persefone, di crocifiggerti per sempre. La trovarono, ma tra le mani tenevano soltanto un'imbottitura di gomma piuma, una danza in peritura di tessuti e grumi di cotone. La rossa riapre le porte a chi parte, a chi ritorna, alla fitta coltre di guance rosse e facce moge che non chiedono altro che il ritorno a casa. La rossa riapre senza che di lei ci sia più traccia, nessun filo adesivo che si intreccia per sbarrare la metro. Buonasera a tutte e a tutti. Volevo leggervi due poesie, una mia e una non mia. Quella mia ha a che fare con il muso. Il muso, quando vi mettono il muso. Non so se avete ben presente questa sensazione brutta, no? Io sono cresciuto con gente che mi mette il muso e non ho mai sopportato. Ho cercato di descrivere una persona che ho amato, che mi ha messo il muso e come si è trasformato il suo corpo mentre mi metteva il muso. Si sente? Sì. Ok. Faccio così? Meglio? Ok. Infatti si chiama Madrigale con il tuo muso. Domandi per Capodanno Non ho risposte certe da matti, non da matti, fuori o dentro, con godo, senza godo, quando, inquieto, afferro i lineamenti rosei delle labbra, tondeggiare, le braccia molli prendere vigore e inconsertarsi, i sopraccigli calare, pronunziando le code, i due diabolici estremi, eredità paterna, commuovendo le labbra, gli occhi amari, semi aperte, il volto, indietreggiare i capelli con movimento anemico, rizzarsi il corpo in blocco, gli angoli paterni surizzarsi con sufficienza esasperati e poi giù, le gambe accavallate, occhi che mi evitano cercando i miei e un bacino, un mezzo riso e gli occhi e il viso farsi famigliare. Grazie. La seconda poesia è di un poeta, insomma, poveraccio, morto suicida, non molto simpatica come cosa, però secondo me è un grande poeta, si chiama Simone Cattaneo, non so se lo conoscete o l'avete letto, e recita così. Appesa per le caviglie ad un albero del viale, ho incontrato per la prima volta l'unica donna che ho mai amato. Avrei voluto proseguire, ma mi ha chiesto uno sguardo, mi ha domandato di guardare un fiume inesistente fra le stelle. Quindi mi sono arrampicato fino all'orlo del suo viso, ma non si è scomposto, nulla del mio corpo mi ha nascosto. Immersa nel suo odore, mi ha aperto il petto così che potessi sentire il suono del colore. Colmo di paura, ho promesso che avrei imparato ad aspettare. Ho fatto un giro intorno all'albero e la mia donna era svanita, rapita dalla frutta candita di un'isola caraibica. Mi sono legato per le caviglie ad un lampione per capire la sua prospettiva e riallineare la mira. Ammassati intorno a me sbavavano dei cani con le mascelle di vetro in fiamme, ma la terra si è asciugata e la festa è finita. Non ho più incontrato una donna così bella, forse sì, è la carne che tutte le le notti mi dorme accanto, persuasiva nelle cosce, elegante nelle mani, luce morale dei fianchi, ripiegata e indistinta come uno scheletro di pesce. Sono certo, siamo l'una la proposta dell'altro. Grazie. Allora, ciao cari. Allora, adesso volevo recitarvi anche una cosina, che non mia perché sono un pavido, però vi vorrei far scegliere. Volete una, perché Davide Carretta ha fatto prima quella cosa, come la possiamo definire? No, prima dell'azione, dopo l'azione scenica, quella sul cognome. Ah, sprologio. Ok. Che mi ha ricordato una cosa che diceva, non mi ricordo chi, i poeti sono anche quelle persone che sanno estrarre l'elemento poetico da cose che stanno sotto l'occhio di tutti, ok? Quindi per esempio un cognome, una pietra, un bicchiere d'acqua. Qui c'è un poeta che l'ha fatto con i merluzzi, ok? Ma i merluzzi in un momento particolare, cioè quando... Si sente se lo metto così... I merluzzi, quando, credo che siano merluzzi, i maccarelli lui li chiama, insomma, questa roba qua, sì. Sgombri? Va bene, ok. Gli sgombri? No, ma questa sottigliezza ittica in qualche modo è puntuale. Perché quando sono al mercato tutti in fila uno sopra l'altro, quindi tutti uguali. Okay? Lui è colpito da questa visione. No, non ero io prima. Non ero io prima, giuro. Però comunque. Ora è rimasta questa trinità. Sì. È una lettura dei tarocchi, volendo, questa cosa qua. Sì, poi la interpretiamo, la leggiamo. Comunque, il poeta è Mark Doty, sconosciuto, americano, sconosciuto a noi lì, un grande poeta. Cioè, grande poeta. Vabbè, ok, sti cazzi. E si chiama Un'esposizione di Maccarelli. Immaginatevi, il poeta cammina per il mercato. Stanno in file parallele, sul ghiaccio testa a coda. ognuno 30 centimetri di luminosità striata a bande nere che dividono le radiose sezioni delle scaglie come giunture di piombo in una finestra Tiffany. Iridescenti, acquosi, prismatici. Pensa all'orecchia di mare, al selvaggio arcobaleno, nello specchio di una bolla di sapone. Pensa al sole sulla benzina, splendore e ancora splendore, e non uno in alcun modo distinguibile dall'altro. Nessun elemento in loro di individualità. Invece sono tutti esatta espressione di un'unica anima, ognuno la perfetta realizzazione del modello celeste, essenza di Maccarello. Come se arrivato dopo una vita intera a questo smalto, il gioielliere avesse fatto infiniti esempi, ognuno così complesso nella sua oleosa favolosità, esattamente come quello precedente. Pensa se potessimo essere iridescenti come questi e perderci interamente nell'universo del luccicare. Vorresti essere solo te stesso, induplicabile, condannato ad andare perduto. Loro potrebbero semplicemente essere partecipanti risplendenti, parte di una moltitudine, anche adesso, che sembrano stare per balzare in avanti incuranti della stasi. Non gli importa di essere morti e quasi congelati, come pure, presumibilmente, non gli importava di essere in vita. Tutti, tutti per tutti, la scuola dell'arcobaleno, i suoi acri di aule brillanti, in cui nessun verbo è al singolare, o lo sono tutti. Come sembrano felici, anche sul ghiaccio, di essere insieme, incuranti di sé, che è il prezzo del risplendere. Marco Doti. Scuole speciali. Il desiderio è la forma che diamo alla vita, l'immagine del mutamento che sarà, l'attesa in cui si compie il nostro destino, ed è sempre esaudito. Talvolta però, per un errore di distrazione, una virgola, uno si ritrova a fare il poliziotto e voleva fare il pittore. Un altro si ritrova poeta e invece desiderava l'amore. È risaputo infatti che ogni sogno contiene infinite fogge e vaga nel tempo. L'espressione di un desiderio è dunque cosa seria. Bisogna rimanere concentrati, stare attenti ai segni della punteggiatura. Gli dèi lo sanno bene. Hanno aperto delle scuole apposta sull'Olimpo. Buonasera. No, allora, vorrei esordire intanto ringraziando chi ha organizzato, chi ha ascoltato. Io sono sceso da qua prima, alla fine del mio turno, che mi batteva un sacco il cuore. E non so, quella sensazione come la prima volta che parli alla ragazza, al ragazzo che ti piace, è strana, oppure ti butti per la prima volta da un'altezza bella importante in acqua, e mi sentivo un po' così. E Luca mi fa, è un bene, perché vuol dire che ti stai accorgendo di essere vivo. E niente, volevo condividere con voi questa cosa e ringraziarvi, perché questa serata mi ha fatto rendere conto di essere vivo. È stata bella ed è ancora bella adesso che si sta svolgendo, quindi grazie. E stavolta provo a non cantare, però è sempre un pezzo di una mia canzone. Voglio il senso, non una direzione. Voglio il motivo, non una soluzione. Perché io sono io e non altre persone? Perché so tutto, vado a letto col magone. Perché cammino per la strada col terrore di finire con le scarpe in una cacca di cane? Come può una paura di questa caratura magnetizzare gli occhi e zittire il cuore? Ho dato via la libertà per sicurezza, per mettere la sveglia alle 6:30, per essere un numero, un voto, un colloquio di lavoro, un sorriso finto, obbligatorio. Grazie. Tutto ciò ha del tempismo perché appunto il nostro amico ci ha detto che quando è tornato, insomma, io gli ho detto è una cosa buona, cioè se ti batte il cuore e lo senti perché sei vivo. E io ora però vi vorrò leggere un componimento che ho scritto la scorsa primavera che parla dell'altro aspetto della vita. Con la primavera ho andato in Sardegna e scendendo per andare a prendere il traghetto si passa da Carrara, che forse per Carretta sarebbe anche un grande cognome, ma dicevo quindi da Carrara, quindi non so se avete mai visto, ci sono proprio le montagne da cui si prende il marmo di Carrara. Io tornato da quel viaggio in Sardegna, il lunedì vado da un cliente, tornando in macchina mi fermo attratto in un cimitero e mi metto a camminare tra le lapidi, un po' come fossero i nonni, i padri, le madri, le zie, i fratelli, i figli di tutti, e ho scritto appunto questo componimento che vi leggerò. Devo trovarlo nel telefono. Si intitola Solitarie primavere. Lastre di marmo staccate, strappate da montagne nude, inermi che non han potuto dir nulla perché parlano con linguaggi diversi, lasciate sventrate sole come innevate in primavere solitarie, marmo per ricordare e coprire i nostri morti con sarcofagi preziosi e pesanti, come il peso di ricordare qualcosa che è stato e non più al suo posto può tornare. Allora, questa l'ho scritta tanti anni fa, dopo aver letto i quaderni dal carcere di Gramsci e altri suoi scritti. E quell'estate ebbi una rivelazione e capì che io odiavo due categorie di persone nella vita. Una era gli juventini e gli altri, ovviamente, gli indifferenti. Per me, tra l'altro, sono due cose molto simili. Spero di non offendere nessuno juventino in sala. E quindi. E se tu fossi lui, ultimo degli ultimi, solo tra i soli, capiresti l'ingordigia? E se tu fossi lei, violata nell'animo e nel corpo, senza giustizia possibile, accetteresti la lussuria? E ancora, tu fossi diverso, escluso fra gli uguali, sorella senza diritti, sopporteresti la discriminazione? Eppure la linea è vaga. Ogni anima condivide il molteplice, oppressore e afflitto, natura infima e duplice, vincitore e sconfitto. Come posso io ergermi a giudice? Giudica tu, allora. Se tu fossi loro, ritti avanti a te o indifferente, se avessi in mani sofferenti la tua vita, cosa ne faresti? Contempla come il mondo si disfà sotto il tuo implicito consenso. Chi sei tu, fantasma tacito? Quando hai deciso di non decidere? Forse qualcuno ha legato i tuoi sogni, soffocato i tuoi ardori, prosciugato la tua umanità. Se così fosse, però, trapelerebbe dal tuo viso il dissidio, emergerebbe chiara la tua battaglia per la libertà. Tu vegeti o indifferente, rubando alla società il frutto del suo travaglio. Freme il tuo viso solo per chi intralcia il tuo cammino, mentre ai lati del sentiero soffre e si immola l'innocente. Sei un involucro vuoto o indifferente, e per questo non puoi dirti umano. leggo qualche poesia random. Considerate che sono scritte in un rapporto con le persone, cioè veloce anche, per cui cerco di arrivare, di fare di creare il vero, non so con chi parlavo prima sulla verità della poesia, no? Sul fatto che necessiti un certo sentire nelle intenzioni e che risulti in un sentire che riguarda sia l'emotivo che il mentale, no? Insomma, quindi ve ne leggo qualcuna a caso. Vediamo e ve le racconto. Se vi va. Ah, questa me l'ha chiesta un ragazzo arabo, ma tipo, come dire, un arabo di quelli molto occidentalizzati nella misura in cui viaggiano ma conservano la loro cultura, no? Tipo un Gali fatto bene, no? No, per dirla vero, no, per fare un esempio. E mi ha chiesto su Dio, e poi mi ha lasciato lì anche una frase, una poesia di Rumi. Però insomma è un po' uno zanzabello, no? Vabbè. Dolce vibri i timpani del mio cuore, arde il sole a riflesso di sé, sole dei soli dell'universo, batti un ritmo le cui pause, catarsi del mio, fronde mosse dal soffio d'una ruota, amo l'istante di luce, perdendo l'abbraccio d'ombra che mi lascia vedere, la modulata lucente linea di capillari e arterie, pulsa al ritmo della fiamma, carde dal chimico fuoco. Insomma, magari è un po' strano. Vediamo. Se ne vedi un'altra. Sì, sì, sì. Vai. Dai, non la trovo. Basta, andiamo tutti a casa. Buonanotte. C'ho sonno. Ah, a meno che non ci sia qualcun altro che si presta. Viene il cane? No, non viene neanche il cane. Basta.